cazzo l'orgoglio in questa situazione. Colpa dell'essere sere soli a riflettere. Per stavolta scrivo lettere, tanto me ne andrò via con gli sbagli ancora da commettere. Ci do in su e ci vediamo domani. E spero tu ci sia, voglio vederti mangiare le mani. Percepisco l'attenzione, reagisco per costrizione. Con un disco pieno di contraddizione, io bevo dalla mia fonte, quella di ispirazione. E non mi butto dal ponte per la disperazione. Piuttosto aumento consumazione, consumazione. Consumo maledetti progetti d'autodistruzione. Fascio le mani perché ho la motivazione, ma non mi sporco per darti dimostrazione. Questo è quello che sono e ci ho fatto solo una canzone. Questo è quello che porto, uno stile lunatico sporco. Sanno approfittare, stronzi, mi costringono a odiare su tutti i fronti. Sono un buono senza il culo sul trono, con la faccia da sonno perché mi stuono. Alla faccia dei 26, anni matte ancora non so chi sei. Io non sono ciò che sono, io sono ciò che vorrei. Ma se lei lo capisse che mi basta uno sguardo, oh magari mi sbaglio, oh, sono mica un bersaglio. Avete fatto il cuore a fette messo insieme agli assaggi. Ma gente come me o la mangio o la cacci. Taci, come a Roma li mortacci. Potessi schizzare via lo farei, ma senza falsi abbracci. Passi, perché questa è la sostanza. Il fatto è che se avanzo perché ancora ho speranza. Uomo, non per circostanza, più volte ho chiesto il perdono. Lascia passare gli anni e capirai, questa vita quanto è strana. Questa vita è una figata, come avere la possibilità di vivere un'altra giornata. Con l'affetto dei miei cari e con quei pochi mezzi che rendono i problemi secondari. Ho una vita e non la spreco, ne avessi la possibilità mi rifarei il giro completo. Ma quando do un'occhiata indietro sento il vento freddo e il gelo per ogni ricordo tetro. Perché si è accannita, io che sono un cannato e non l'ho mai fatta finita. Ne ho appena fatta una ed è già finita. Questa vita è una figata, come avere la possibilità di vivere un'altra giornata. Ho una vita e non la spreco, ne avessi la possibilità mi rifarei il giro completo. Oh, che ho detto FG sto scrivendo un pezzo, il giorno dopo sono andato all'ospedale in ansia ero in cala.